Bruxellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Bruxellando, bentrovati, bentrovate, benvenuti, benvenute. Eh sì, penserete che Bruxellando sta prendendo l'abitudine di organizzare degli speciali, ebbene sì, sono le 20:15 e come tanti di voi avranno già avuto modo di verificare sul nostro blog, questa sera abbiamo uno speciale. E posso definirlo speciale in tutti i sensi e per più motivi. Come tutti voi sapete, ho origini campane e come ho sempre sottolineato anche in radio, non ho mai fatto mistero, per essere proprio più precisi, cilentane. E dovete sapere che qualche settimana fa, quindi, sono stata contattata per promuovere qui in Belgio una mia corregionale, ma chiamarla corregionale sarebbe troppo vasto, perché Regione Campania significa tante cose. Invece no, una ragazza cilentana come me, che si sta facendo strada e onore, non solo in Europa, ma anche in altri continenti, come quello per esempio americano, che quindi riesce a portare in giro per il mondo, in maniera totalmente nuova ed innovativa, quelle che sono le sonorità e le musiche di questa amata terra cilentana. Ieri sera magari qualcuno di voi si trovava casualmente, invece espressamente al convivio a Châtelet, dove Piera si è esibita, penso per la prima volta a Bruxelles. Quindi scusate l'emozione, però è davvero tanta questa sera nel presentarvi qui con noi a Radio Alma, Bruxellando, quindi per la prima volta in radio, quindi sulle frequenze 101.9, Piera Lombardi. Piera, benvenuta. Grazie, grazie a tutti e grazie a te Maria Elena per avermi invitato. Insomma, è vero, è la prima volta che faccio l'esperienza radiofonica e sono emozionata, sia per questo e mi associo alla tua emozione, perché poi, come dire, trovare il calore cilentano, no? Quello che un po' appartiene alla nostra terra, alla nostra gente, così lontano da noi, beh, è sempre un piacere. Quindi grazie per questa bella avventura che mi stai facendo vivere, ripeto, è la prima volta. Bene, benissimo. Allora, Piera ovviamente non è da sola, perché è circondata dalla sua band, la mitica, dalla band. Sua mitica band, in compagnia anche del suo produttore Tonino Valletta. E magari lascerei a Tonino la parola di presentare magari i componenti della band e di raccontarci quello che è lo strepitoso cammino di Piera. Che ne dici, Tonino? Intanto buonasera ai radioascoltatori di Radio Alma e grazie veramente per averci dato questa bellissima opportunità. Siamo orgogliosi, siamo contenti di avere questa possibilità, soprattutto qui a Bruxelles. Come dicevi Piera, come diceva anche soprattutto Piera, dice, sono emozionata perché è la prima volta che poi alla fine siamo in radio, perché Piera era abituata, fra le altre cose, alle telecamere, alle televisioni, ma non alla bellezza, al fascino della radio, e questa è stata una, come dire, una grande opportunità. Per quanto riguarda il progetto, è un progetto che per certi aspetti è un po' una scommessa che io ho deciso di fare insieme a lei e insieme alla sua band, tutti i ragazzi del territorio cilentano, musicisti validissimi, e la chiamo scommessa perché partire dal sud, dalle regioni del sud, è sempre molto difficoltoso, e soprattutto poi proporre dei discorsi, come dire, musicali, artistici. E però la scommessa l'ho fatta perché ero sicuro che avevo fra le mani un talento come Piera, una voce insomma dalla vocalità straordinaria, dalla timbrica particolare, e poi perché volevamo scommettere su anche altre cose. Noi abbiamo delle radici musicali, insomma, che riguardano la nostra tradizione campana in generale, del Cilento, ma anche del Sud Italia. Sono delle radici straordinarie. e tutto sta a riuscire a, come dire, a rendere tutto poi fruibile, leggibile, questo nostro discorso musicale, farlo, diciamo, non congelarlo nella tradizione che poi risulta a un certo punto asettica, e poi soprattutto svilupparlo e come dicevo, renderlo leggibile, dargli una chiave di lettura internazionale. La scommessa fino adesso è vincente, perché Piera è un artista che porta le tradizioni del nostro territorio, del sud Italia, ma soprattutto riesce ad entrare nei cuori della gente mitteleuropea, nordeuropea, come dicevi tu anche, siamo in varie località e palcoscenici quali USA, quali Sud America e via dicendo. E quando è cominciato questo vostro cammino, questa avventura, quanti anni fa? È iniziato qualche anno fa, prima Piera ha fatto qualche esperienza insieme ad un gruppo, poi dopodiché lei ha avuto il coraggio di fare questa scelta, molto difficile, di fare questa scelta. Io ho cercato per certi aspetti di coadiuvare, di aiutarla in questa sua, in questo suo cammino, e quindi... diciamo che Piera ha iniziato veramente il suo cammino da artista 3-4 anni fa, per cui e adesso comincia ad evolversi, adesso comincia ad avere il suo sviluppo anche internazionale, insomma. Voi siete ugualmente produttori delle vostre canzoni oppure sono soltanto interpretazioni di quello che è poi il folk cilentano? Diciamo che abbiamo... siamo partiti da canzoni, da, chiamiamole cover, come si usa dire oggi, però io credo che la nostra rilettura, il nostro riarrangiare il tutto, ha fatto sì che quasi fossero dei brani per certi aspetti completamente diversi, perché poi nei brani di Piera o c'è una grossa energia, un grosso impatto sonoro, oppure ci sono delle atmosfere dilatatissime, quindi abbiamo questa musicalità della lingua napoletana, della lingua pugliese, della lingua cilentana, della lingua anche siciliana, abbiamo questa bellissima musicalità della lingua del sud in questo caso, e che si sposa benissimo con queste atmosfere a cui diamo un grosso ambiente, una grossa dilatazione, insomma è chiaro che usiamo il linguaggio moderno per certi aspetti. Dopodiché Piera poi ha iniziato a sviluppare un suo discorso molto importante che parte dalle problematiche, dalle radici, dalle problematiche della sua terra, poi logicamente. Io sento già dei suggerimenti dalla regia, quindi magari come me tutto il pubblico è in attesa di ascoltare questa grande voce. Vedi turchina, colistella. Ed è Eccoci qua, siamo ritornati nuovamente in studio. Allora, ci interrogavamo sul titolo di questa canzone. Mi era sembrato di captare qualche parola, però magari Piera ci può dire esattamente il titolo. Il titolo è Gli Sarracini adorano lo sole. È una canzone bellissima della tradizione popolare napoletana. E la versione che avete sentito è completamente riarrangiata. Come diceva Tonino prima, noi il nostro lavoro si sviluppa proprio in questo. Consiste proprio in questo soprattutto. Cioè quello di cercare di dare una veste forse anche più pop, più particolare, più etnica, no? A quelli che sono i pezzi tradizionali che sicuramente mantengono forte la radice tradizionale, che però, come ti dicevo, stiamo cercando di vestire in una maniera anche più leggibile alla maggior parte di persone che possono andare, la nostra fascia di pubblico, no? Per dirtene una, là dai ragazzini di 14 anni alle persone di 80, quindi c'è qualcosa nel ritmo, nell'energia di questi brani che comunque, non lo so, forse coinvolge a qualunque età, ecco, anche per quanto riguarda la lingua. Questa è una cosa che mi affascina molto, cioè spesso ci si avvicina ai nostri brani, la gente che ascolta, soprattutto chi non conosce il dialetto, l'italiano in questo caso, come è successo qui a Bruxelles, si avvicina perché toccata forse dall'energia, appunto, dall'energia, dalla passionalità di certe musicalità, e poi viene lì a chiederci: ma cosa dice sto pezzo, ma di cosa parla? Quindi la cosa è un discorso anche di interesse, anche in questo senso, quindi la cosa ci fa molto piacere. E quali sono i temi di cui voi preferite parlare nelle vostre canzoni? Guarda, la musica popolare, la bellezza della musica popolare è che è un po' la descrizione, appunto, semplice di quelle che sono stati dei percorsi storici di alcuni territori, no? Come può essere il nostro, come tu ben sai, insomma, è un territorio straordinariamente bello, ma anche difficile, no? Per tanti aspetti, anche perché si porta dietro un bagaglio culturale, di esperienze anche storiche forti. Uno dei temi, per esempio, che trattiamo molto nei nostri spettacoli, nei nostri concerti, riguarda proprio il brigantaggio, questi briganti, questi personaggi per alcuni considerati degli eroi, per altri dei dannati, no? Però a noi affascina molto il personaggio del brigante, cioè colui che lottava anche fino alla morte per ottenere quello che lui considerava essere la propria libertà in quel periodo storico. E abbiamo fatto dei concerti anche molto belli dedicati proprio a queste figure. Siamo stati, per esempio, abbiamo fatto delle cose in teatro e abbiamo avuto l'opportunità proprio di raccontare un po', anche mediante delle immagini molto forti, delle foto, delle cose che abbiamo raccolto, degli scritti, delle cose che abbiamo raccolto. Abbiamo costruito dei video e devo dire che la gente è rimasta affascinata, perché poi si parla di cifre esorbitanti, no? Di persone che sono morte per raggiungere quella libertà che probabilmente non hanno mai raggiunto, no? E per cambiare un po' le cose dei nostri territori, no? Qualcuno ci ha provato, ecco, come dico spesso io. Beh, diciamo che è un percorso, è un cammino, se vogliamo. La stessa indipendenza dell'Italia è recente se paragonata magari a quella di altri paesi europei. Sicuramente il brigantaggio non è un tema facile, prima di tutto perché già storicamente è contraddittorio e controverso, secondariamente perché poi è prevalsa una dottrina piuttosto che un'altra. Esatto. E io trovo comunque stupefacente che in musica finalmente si possa restituire quella libertà di pensiero e di azione che comunque costituisce il fulcro principale di questi straordinari eroi ottocenteschi. Sì, sicuramente, perché io ieri sera ti ho ascoltato cantare uno di quei brani. Sì, e sono dei brani che ci appartengono proprio. Sono, capito? Melodie effettivamente struggenti, che ti portano indietro ad un tempo effettivamente lontano, eppure poi così non tanto lontano. E guarda la straordinarietà di questi testi, no? Di questi canti così semplici, ma allo stesso tempo assolutamente incisivi, no? E proprio la straordinaria attualità, perché tu senti in questi canti, in quello che è un po' la descrizione della vita di questi personaggi, no? Della vita, del percorso, della lotta e della, come dire, della fine. Uh-huh. Cioè senti forte l'appartenenza a quella terra, il desiderio di far qualcosa per quelle terre, ed è una cosa attualissima, perché c'è ancora gente che lotta per cambiare le cose. Beh, fortunatamente noi ci auguriamo che sia così in Campania come altrove. Poi se volessimo traslare il tutto a livello europeo, effettivamente il discorso dell'appartenenza è assai vasto. Come? Però proprio per ritornare a questi temi, da dove nasce poi questo interesse nello specifico al folk? Perché insomma penso che la vostra età media sia 24-25 anni, insomma. Ma io ti ringrazio, non è sicuramente, meno male che la radio, come dire, non può smentire le tue parole. Dico come mai questo interesse comunque per temi sicuramente non facili, insomma. Ma guarda, la musica è un mezzo straordinario ed immediatissimo, forse quello più immediato, no? Come forma d'arte il più immediato, e ci sembrava quasi doveroso, no? Descrivere, parlare di certi argomenti, e farlo con la musica è molto più semplice che arrivino, no? A toccare certe corde. Sicuramente c'è chi l'ha fatto prima di noi, perché noi andiamo lì a ripescare delle cose meravigliose e sicuramente cerchiamo di renderle più fresche, più attuali, come ti dicevo prima, intellegibili al maggior numero di persone. Però il concetto non cambia, cioè di fondo c'è una tradizione, un bagaglio di esperienze di quel territorio, di quei nostri territori, che è giusto che vada cantato, è giusto che vada conosciuto. E noi, come hai potuto sentire ieri al convivio, in questo bellissimo posto nel quale siamo stati invitati da Rosalba e Gioconda, che ne sono le titolari, delle persone squisite, abbiamo spaziato un po', no? Abbiamo fatto la canzone popolare, però così proprio più scanzonata, no? Tra virgolette, scusa il gioco di parole, e poi abbiamo dedicato, come giusto che sia, aprendo proprio una parentesi, a questi temi. E ci sembra giusto, nonostante siamo giovani, però siamo cilentani e siamo del sud, ed è giusto che certe cose vadano anche riportate, non sempre come la storia dei vincitori ci ha fatto conoscere, no? Quindi è importante studiarle, sentirle le cose, andare a ricercarle e cantarle, perché no? Quindi in realtà non è soltanto un osare verso la tradizione musicale, ma è anche un osare storico, riportare alla memoria magari... No, guarda, storico sarebbe troppo, no? Io non ho la non abbiamo la presunzione di fare gli ci mancherebbe altro, però spesso c'è la convinzione, no? Che la musica popolare sia... capito, sempre un po' barazzina o così frizzante per forza. Di fondo la musica popolare alla gente serviva anche per dire delle cose importanti. Assolutamente. Che ne so, la tammurriata nera, no? Che è uno dei canti tradizionali per eccellenza del popolo di Napoli, dice delle cose molto molto serie, e per dirti, eppure cantate con un ritmo festoso, perché la musica popolare, la cosa straordinaria della musica popolare è che vicino a dei ritmi molto anche briosi, grazie a dei ritmi briosi si riuscivano a denunciare delle cose ma veramente gravi, quindi la mancanza di libertà, piuttosto che i soprusi, gli abusi, eccetera eccetera. E quindi non è proprio sta cosa per forza scanzonata, perché spesso si associa la musica popolare alla tarantella, no? Che è giusto che c'è e che noi amiamo tantissimo, però come concetto, ti ripeto, la musica popolare è nata proprio per riuscire a tirare fuori delle cose che altrimenti il popolo non poteva dire, per la maggior parte dei casi. capito? Bene. Queste... Ti stiamo già ascoltando in sottofondo, quindi magari un paio di minuti per i nostri ascoltatori e poi ritorniamo in studio. All'autore canto senza alla bocca di Luris te darrai campare viso. Tu sei chiuso i palumbè. Labbro curallino palume da zompa e pola coppa chi lo te consola e mai più non te partì e si vide casa dorma e te bene lo tanti tu la zica tu vasillo e per me nato per ti tu la zica tu vasillo e per me, e per me. Nato per te. Beh, questi erano degli estratti da alcuni concerti live di Piera. Abbiamo così abbiamo registrato un po' in presa diretta, anche perché il CD spero sia in prossima uscita. È la cosa bella che abbiamo quasi 5.000 prenotazioni, che è un miracolo poi in effetti per un artista che non è supportata dalle major, insomma, però come dicevo ha un grosso supporto da parte della gente, sia la nostra sia come dicevo prima così dalla gente che viene ai nostri concerti all'estero. Questo era un brano della tradizione classica napoletana, Palumbene, che è stato un po' come dicevo prima anche rivisitato in maniera molto essenziale. Gli elementi sono un arpeggio, una tamborra molto riverberata, ecco qua diciamo il linguaggio anche un po', io adesso vado un po' nel tecnico. E qua usiamo appunto i linguaggi della tecnologia dell'est, perché usare una tamborra in maniera molto, molto cadenzata, molto larga, messa in degli ambienti pinfloidiani quasi, ecco, e un leggero ritmo con le spazzole, questa essenzialità, che poi alla fine è attorno a questo timbro suo molto caldo, diventa poi un elemento, come dire, un insieme vincente, ecco. Questo è poi l'esperimento di cui parlavo prima e che stiamo portando avanti, insomma. Fare spazio un po' attorno alla voce di Piera in certi momenti. Quindi magari volevo sentire anche l'esperienza dei ragazzi qui con noi della band, magari diciamo un po' la timidezza e vi presentate? Sì, eccoci qua. Buonasera, io sono Denis Citero, sono il batterista di... Denis, nome d'arte oppure nome vero? No, nome vero, nome verissimo. Denis. E sono il batterista di Piera, per cui... Da quanto tempo sei in band con Piera? Da 3 anni. Sono 3 anni che sono con lei, andiamo in giro. Andiamo in giro molto e questo credo sia molto importante per quanto riguarda noi più giovani, cioè noi ragazzi, perché... Tu sai bene dove abitiamo, per cui... Assolutamente, sì. Dove abitiamo noi, insomma, viaggiare è una cosa molto... È un miraggio. Viaggiare con la, per la tua passione, per il lavoro che tu fai, è molto bello. E poi voglio dire, farlo così spesso e farlo anche senza montarti la testa, perché poi già non lo si fa mai dalle nostre parti. Allora quando lo fai e sei forse l'unico che lo fa, che riesce, devi pure cercare di mantenere i piedi per terra, anche se poi, voglio dire, non abbiamo nemmeno il tempo di pensare a volte quello che facciamo, perché dobbiamo farlo e basta. Qual è il ricordo più bello di questi 2-3 anni con Piera? Soprattutto non sembra essere ruffiano, però i viaggi all'estero, cioè, sono la cosa più bella, perché io ho iniziato poi a suonare con lei proprio casualmente per un viaggio all'estero. Sono stato contattato 15 giorni prima per una tournée in Venezuela e quindi sono andato io il primo concerto che ho fatto con lei l'ho fatto in Venezuela, per cui sono nato all'estero. Quindi... E qual è, secondo te, rispetto ai vari concerti ai quali avete partecipato, qual è la reazione del pubblico, al di là delle lingue, della comprensione magari delle vostre canzoni? Cosa percepisci Percepisco che il pubblico, percepisco un gioco di parole, percepisco che il pubblico riesce a recepire bene i momenti che noi andiamo a proporre, cioè se noi cerchiamo di proporre un momento in cui più calmo, come dinamiche, come pezzi, il pubblico sta ad ascoltare e non si scoccia, non se ne va, mentre invece se ci prefissiamo che il pubblico debba ballare, balla, quindi, oppure... Da ieri sera, infatti, al convivio, voglio dire, erano tanti i belgi, e credo non solo belgi, mi sembrava di intuire più lingue, eppure verso la fine, insomma, penso che tutto il pubblico si sia scatenato a ballare, sì, queste danze, sì. Dettate da queste melodie effettivamente ora allegri, ora struggenti, come quella dedicata infatti ai Briganti. Vabbè, anche perché un po' usiamo la ritmica. Di Piera è proprio voluta molto possente, molto essenziale, ed è un mix proprio di percussioni, di martello insieme a strumenti quali la tamborra, insomma, cioè questa contaminazione fra le tamborre e la batteria intesa in senso più classico. Per cui poi questo diventa, soprattutto in certi momenti, un mix esplosivo, insomma. Bene, allora abbiamo qualcun altro qui, insomma, i microfoni, dai. Allora, ciao, io sono Vincenzo De Caro e sono il chitarrista che suona con Piera, con Tonino, Dennis, Tony. Da quanto tempo sei con Piera? Io sono l'ultimo arrivato, praticamente, perché sono in circa 7 mesi che sono con loro. Niente, io, allora... al di là dell'aspetto musicale, che ovviamente è interessantissimo, vorrei pure un attimo soffermarmi sul rapporto che è nato tra tutti quanti noi, perché effettivamente più che è un lavoro, però è diventato anche una passione cioè, a livello di amicizia, perché prima di tutto siamo musicisti, prima di tutto siamo amici e poi anche musicisti, quindi cioè non c'è il rapporto, sai, del musicista che va a suonare per mercenario, del mercenario, no? Quindi cioè, noi tutto quello che viviamo lo viviamo insieme, e le cose belle, le cose difficili, le cose, quindi è bello anche questo, cioè, con loro, e mi sto divertendo tantissimo, anche perché viaggio e a 23 anni io, cioè, Marilè, li ho pagati profumatamente, anche perché voglio dire, cioè, Piera sì, è così, però Piera è una tosta, lo dico per l'esperienza fatta. Perché se in radio dici sono tosta, avresti detto è antipatica, insopportabile. No, va bene. Ti abitua ad un certo rigore, forse, probabilmente, sì, che sì, comunque sì. È necessario, nonostante artisti. Sì, infatti, perché noi, diciamo, ma pure sulle battute che facciamo ogni tanto, Piera dice, ragazzi, cioè, o meglio, Piera interagisce con noi alle battute, quindi ci divertiamo tantissimo, perché se vuole fare la tipa, alla fine lei è quella che va bene, a fine trasmissione ne parliamo. Ma qual è stato l'elemento che ti ha avvicinato a Piera, essendo tu l'ultimo arrivato? Allora, io tramite Dennis, che mi conosceva, suonavamo insieme in un altro gruppo, mi disse che comunque c'era sta possibilità di suonare con Piera. Io appena lo seppi, la conoscevo già, sapevo la musica che faceva, e tra l'altro era una musica nella quale io sono entrato, come dire, fresco, non avevo suonato poco di musica popolare, cioè non mi era mai interessato, quindi ho dovuto pure, dal punto di vista tecnico, chitarristico, così vogliamo dire, ho dovuto un attimo pure trovare gli elementi, mi sono dovuto informare, poi ho dovuto capire il sound bellissimo che Tonino e Piera, cioè, scusa la mia effettivamente ignoranza, ma tecnicamente cosa cambia quindi? Allora, sai cos'è? Cambia il fatto che bisogna essere, tra virgolette, più rudi. Rude. Capito, Marilena? Quindi in effetti emerge tutto ciò che c'è di... Allora, la cosa bella è che questo contrasto tra dolcezza, momenti di estrema dolcezza e momenti di estrema aggressività, se tra virgolette, se così vogliamo dire, sia con la chitarra, con dei ritmi, di questi ritmi terzinati, di questi, perché tantissimi ritmi terzinati e non solo, anche binari che effettivamente quella poi è la radice forte di un brano popolare, il ritmo, parliamoci chiaro, il ritmo. Quindi questo era. Allora, sento scalpitare dalla regia qualcun altro, non vorrei dimenticare nessuno, sì. Scusatemi. Dai. Io volevo ringraziare. Allora, come ti chiami? Dai. Nome. Io mi chiamo Antonio Cortazzo. Ah, sono beh. Qui alla regia a mettere i dischi. Ah, benissimo. Capito, doppio lavoro. Doppio lavoro. Sì. Raccontaci, da quanto tempo sei con Piera? Io con Piera sono dall'estate del 2007 ed è un'esperienza, per quanto mi riguarda, bellissima, perché a parte tutte le cose che stiamo facendo, che sono bellissime, ci porta a conoscere meglio noi stessi, cioè è una palestra, è un esercizio continuo su di noi, oltre che sullo strumento. E volevo ringraziarli, approfitto della radio, volevo ringraziare Piera e Tonino soprattutto per la loro gentilezza, cioè per i loro modi di fare, che ci mettono veramente in uno stato, in una forma mentis bellissima, in una condizione ottimale per poter lavorare. E noi siamo, parlo a nome di tutti, e noi siamo felicissimi di lavorare per loro. Quindi un'esperienza così è davvero strabiliante, per me è il massimo per il momento, quello che potevo aspirare. Hai capito che bella gente che c'è? Hai capito che bel gruppo che state, hai capito. Costruendo. Però prima di salutarci, perché purtroppo il tempo in radio è tiranno e veloce, volevamo regalare ai nostri ascoltatori 2 minuti di musica cilentana che raccoglie proprio quelle tonalità di cui parlava poc'anzi uno dei ragazzi, proprio su questi contrasti tra dolcezza e magari durezza. E non spaventatevi, siete sempre su Radio Alma, Brussellando 101.9, qui con noi questa sera Piera Lombardi e la sua band. Yeah. Eccoci nuovamente qui, Mari D, bruzzellando in compagnia di Piera Lombardi e la sua band. E come avrete potuto ascoltare questo brano straordinario, non potevamo che salutarci con La Cilentana. Quindi magari diamo ancora la parola a Piera per qualche saluto finale e poi nuovamente a Tonino. Sì, La Cilentana, questo canto tradizionale che è diventato internazionale, grazie all'intuizione proprio di Tonino che lo ha reso tale. E La Cilentana ci riempie di orgoglio perché ci ha permesso di, ha cominciato a permetterci di girare il mondo nel vero senso della parola. E permettimi, giusto, veramente chiudo, ringraziarti, insomma è il minimo, perché ci hai dato questa un'esperienza bellissima, a nome mio e di tutti i ragazzi. Voglio ringraziare anche la gente della mia terra, i miei cari cilentani, perché il loro sostegno è stato tanto, hanno creduto in me, nei ragazzi, in Tonino e nel nostro progetto, e ci hanno sostenuto. Quindi un bacio a tutti i cilentani che ci vogliono bene. Ciao, grazie mille. Tonino. Beh, grazie a te Marilena, grazie Daniele per questa, ripeto, questa bellissima opportunità. Io magari mi trovo, voglio ricordare un po' degli appuntamenti. Assolutamente. Perché noi siamo qui a Bruxelles, così, giusto per fare un test, perché abbiamo fatto un bellissimo concerto a Mons, nella base NATO. Esatto. Allora, di ritorno, siamo stati ospitati da queste gentilissime sorelle che sono Gioconda Astore e Rosalba Astore, che ci hanno ospitato lì al Convivio, questo ristorante che poi non so, non si può fare pubblicità, ma giusto per capire un po' il momento dove saremo noi domani sera, e che soprattutto, siccome avremo delle date di nuovo in Italia, poi saremo a Berlino, in Olanda, verso la fine di giugno, e ritornando all'Olanda ne faremo dei concerti di nuovo a Bruxelles, oltre che in Lussemburgo. Quindi, grosso modo, questi sono gli appuntamenti. In ultimo, magari ricordiamo il vostro sito internet. Sì, perché è importante, www.myspace.com/Piera Lombardi. Benissimo, allora sono io innanzitutto a ringraziare voi di essere venuti qui in radio e di aver accettato il nostro invito. Io ugualmente ringrazio ovviamente il direttore di Radio Alma per la sezione italiana, Roberto Giava, per averci dato la possibilità di avere lo speciale. E ringrazio ovviamente tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, per aver dedicato ancora un'ora del proprio tempo a questa nostra trasmissione. Noi ci risentiremo tra qualche minuto, quindi per l'abituale puntata di Bruxellando, come al solito dalle 21 alle 22. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo ancora una splendida serata. A presto! Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Espace VI, prochaine émission en direct samedi 30 mai. Avec comme artiste invité